Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Di Maria col vaccino ed è 1-0 Parigi, la mette nell'angolo. L'apertura perfetta per il destro del 2-0 Parigi. 2-0 Parigi con Draxler. Di Maria riceve il pallone. Occhio al taglio, sta arrivando anche Meunier. Di Maria! 3-0 Parigi! Estasi a Parigi, Di Maria! Gioco per Cavani, va il Matador! 4-0! 4-0 Cavani! Chapeau ragazzi! Finisce come nessuno avrebbe immaginato, finisce con la festa e quasi con le lacrime. Mi piace molto che lo chiami Parigi, Pierluigi Pardo. Vabbè, a glace non è acqua, eh. Paris Saint-Germain diventa una cantina. Parigi Saint-Germain. No, grandissima partita, ne parleremo a lungo. Anche con i nostri ascoltatori, ovviamente, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666 per i messaggi, anche con Gianmarco Ferronato se vuoi parlarne anche tu dalla regia di pure, così come Edoardo Lavezzari. Oggi è chiaramente il giorno del pronosticone per Napoli-Real. Vuoi toglierti subito il dente? Over. 2-1 Real. Molto bene, allora abbiamo registrato il primo pronostico, scrivete voi che ascoltate, però voglio tornare sulla gara di Parigi, come lo chiami tu, Pardo. Si sì. Sente fin da qui, Milano, via Monterosa, il rumore del mal di pancia di Ibra. Posso essere cattivo subito? Beh, insomma, è abbastanza incredibile, però non è che adesso il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions, quindi la strada è ancora molto lunga, però in effetti fa abbastanza impressione, anche perché, diciamolo chiaramente, non c'è nessuna, secondo me, evidenza scientifica di un'eventuale idiosincrasia fra Ibra e la Champions, cioè non c'è nessun motivo. I dottori non lo hanno ancora detto questa situazione che però si è ripetuta spesso e si ripete delle volte anche in maniera molto, molto particolare. Insomma, vedere il Paris Saint-Germain senza Ibra aveva fatto bene l'anno scorso, arrivato nei quarti di Champions, non è che per forza avesse sempre fatto male, e ripeto, non ha ancora fatto nulla perché siamo soltanto alle ottavi di finale, però indubbiamente ieri ha dato l'idea di una squadra che nella partita secca può dominare. Se poi c'entra molto anche Emery, che comunque è un grande drago, uno stratega nella preparazione delle partite singole. Ma guarda, io ti butto lì due numerini che sicuramente sai, li avrai citati. Nel 29 scontri a eliminazione diretta, con andata e ritorno, ha passato il turno 25 volte Emery, eliminato solo 4 volte, l'ultima nel 2012 quando allenava il Valencia. Nelle ultime 4 stagioni mai eliminato, con 15 qualificazioni consecutive. Senti il rumore del mal di pancia di Ibra? Lo senti anche tu? Sì, sì. A Parigi? No, lo sento. Ma insomma, comunque ripeto, secondo me non c'è nessuna evidenza scientifica. No, sono gli studiosi, sono al lavoro. Gli altri 4-0 subiti dai Blaugrana nella competizione, ad Atene dal Milan nella finale 2004. E nel 2013 allora, all'Allianz Arena contro il Bayern. Curiosamente entrambe le squadre hanno poi alzato la Coppa. Sì. No, allora però, se facciamo un discorso complessivo, globale, che quindi non c'entra per forza con la Champions League, Ibra sicuramente è un grandissimo giocatore, secondo me è veramente un filo sotto ai grandissimi, quindi a Cristiano e... Assolutamente, ma tu lo sai che io lo adoro. Però siamo su questo, anch'io lo adoro. Se vogliamo vedere un limite, il limite è che Ibra è è anche la sua grande forza, è un grande accentratore, cioè è un giocatore, è un giocatore squadra, è un giocatore per il quale è impossibile non giocare, tanto è vero che Cavani, questo invece sì, è scientifico come elemento, da quando è andato via Ibra segna il doppio, sì, beh, stanno 34 gol in 32 partite, c'entrerà anche lui, ma secondo me c'entra anche il fatto che è tornato fisicamente al centro dell'attacco, al centro del villaggio offensivo del Paris Saint-Germain. Ibra è un giocatore da questo punto di vista che ti condiziona molto, che è anche il suo bello, Ibra vince i campionati da solo, in Italia ha vinto dei campionati da solo perché la sua forza fisica in un campionato di livello buono ma forse non eccezionale è decisiva, quindi sì, ha mille qualità. E questo in qualche partita con le grandissime squadre può essere un limite, come è stato a Barcellona. Poi da qui a spiegare tutto questo con la Champions, dire che Ibra non vincerà mai la Champions perché non è capace o perché sente le grandi partite, io non lo penso nemmeno io. È un giocatore molto, molto condizionante, quindi quando si trova a giocare con tanti altri grandi campioni, e le grandi squadre ovviamente hanno tanti grandi campioni, può avere delle difficoltà anche materiali, perché a Barcellona alla fine è stato respinto da tutto il ambientale, no? Cioè, no, quello sì, è stata un'esperienza per lui sbagliata, nonostante abbia comunque vinto ovviamente il titolo. Tra l'altro 16 gol, se non sbaglio, 18, se non, 18 se non ricordo male, ma comunque è questione di... fatto benino, non è che si è fatto male, però sicuramente uno come lui ha un po' l'ambizione di sentirsi una donna. Poi adesso siamo in una fase probabilmente anche logicamente di declino, no? Fisiologico declino. Però insomma Ibra è stato un grandissimo, se non ha vinto la Champions secondo me è stato anche per gli accidenti del destino, insomma, no, per pura casualità, per quella casualità che domina comunque le coppe, che domina la Champions League, che domina i confronti di eliminazione diretta, che domina tutto questo. Tra l'altro quest'anno si appresta a perdere il secondo titolo della sua carriera, perché tutti gli altri li ha vinti con qualunque maglia. Il più bel Paris Saint-Germain della sua piccola storia europea fin qui fa a pezzi comunque, tra poco ne parliamo anche dell'altra parte, cioè del Barça non aveva nemmeno i colori, ma un'orrenda tenuta tra il verde e il celestino che mi ha fatto rabbrividire e che dovrebbe essere vietata per legge, per me, eh. Sì, è una cosa molto simile alle bevande, sì, alle bevande gassate della Roma e dell'Inter, anche sì, se quella della Roma, secondo me, almeno ha il pregio di essere di avere colori sociali, in sintonia con i colori, esatto. I colori sociali, quella dell'Inter è un po' più coraggiosa, però non è la prima volta che vengono fatte queste maglie, lo sai che io non sono contrario, cioè secondo me il male del calcio non è che in Europa League si possa giocare con la terza maglia, non è quello il problema, quello per andarsi a prendere, no, ma che almeno le terze maglie le facciano carine, che queste divise le facciano carine, perché io ricordo anche un Barcellona battuto a San Siro, tra l'altro dal Milan anni fa, che si era presentato in una orripilante tenuta sul giallo, sembrava il Lecce a un certo punto, con tutto rispetto per il Lecce, cioè aveva proprio la maglia sì. Hai ragione, però questo è il gol della Catalogna, quindi hai ragione. Senti, ci fermiamo un attimo per il traffico, sì. E poi ovviamente apriremo un lungo capitolo Napoli, parleremo con calma del Napoli che va verso la sua personalissima finale di Coppa del Mondo, come ha sottolineato anche ieri qualche ascoltatore. L'invito tutti, 800 24 00 24, numero verde traffico. Tutti convocati. Convocati. Pierluigi Pardo, credo si trovi ancora nella Ville de Lumière, no? Sì. Nella deliziosa Ville de Lumière, Paris. Cittadina. Paris. Bello, mi è piaciuto molto. Paris, urlato in telecronaca. Mi è piaciuto. Beh, lì, ragazzi, lo chiamano Paris. Lo chiamano Paris, non è che te lo sei inventato tu. Paris Saint-Germain, appunto. Paris Saint-Germain. Fare 1-0 Paris Saint-Germain la partita. No, 1-0 Paris Saint-Germain è una roba che ammoscia un pochettino, mentre 1-0 Paris è una roba che ti dà la carica, ma me lo insegni tu, maestro. Filippo Maria Ricci, buongiorno. Buongiorno. Mi piace molto la prima pagina del tuo giornale di oggi, vero? Gazzetta dello Sport. Bellissima. Elisa la Volpe, siamo sui livelli di quella con del Che Guevara, sì. Quella forse insuperabile, però qua ci siamo. Sì. E potrei fare un ponte che è lì al, tra Parigi e Madrid. Sì. A proposito di anche a Madrid di Parigi, si sente il rumore del mal di pancia di Ibra, così come a Parigi e a Milano. Chiaro. Aspetta, no, più quello di Messi. Esatto, no, solo lì Napoli che ha una grande tifoseria, ha dei club sparsi per tutto il mondo. E a Parigi c'è il Paris Saint-Germain. Si chiama così. C'è il Paris Saint-Germain. Non è un nome geniale, non è un nome geniale questo per un club di tifosi del Napoli a Parigi? Ne conosci qualcuno? No, conosco quelli di Madrid, però loro me l'hanno segnalato, se volete c'è un sito e tutto, il Paris Saint-Germain. Poi chiediamo a De Luca, il nostro autore che è scappato da Madrid, non riuscivamo più a tenere un attimo ieri, l'ho già visto. L'hai visto? Sì, sì. Era alla sede del Paris Saint-Germain. Come no, sta? Il Paris Saint-Germain è a Parigi. Come sta? Dacci notizie. Sto preoccupato. Luca, l'ho visto pallido, un po' pallido. Sì, ed è solo l'inizio. Oggi verso le 18 ha bisogno di qualcosa. Sì, un sostegno. In fondo, uno dei motivi per i quali vorrei che Napoli facesse il risultato stasera è proprio per De Luca, per gli amici del Napoli, che veramente pensare che non ha una tradizione favorevolissima di recente quando va a vedere Napoli. Non vorrei dirlo. No, comunque, prima pagina meravigliosa, quarto stato, il quarto stato di un intero popolo guidato dai giocatori, guidato ovviamente da De Laurentiis e Sarri, da Insigne, dai giocatori, e dietro c'è anche un Maradona in maglia bianca che accompagna. Un Sorrentino pure, no? C'è un Sorrentino, sì. Ma chi è Andrea? Sorrentino. Forse anche Silvio Orlando, no. Forse anche Silvio Orlando. Che abbiamo visto in quella immagine. Non so se seguite il serio. Comunque posso dirti adesso, la prima pagina è geniale. Riassume due elementi molto, molto forti e molto belli. Il primo è chiaramente il fatto che senza offendere nessuno, anche perché quanto è stato a un'enorme dignità, è chiaro che se paragoniamo la storia europea del Napoli con quella del Real Madrid, è ovvio che la distanza è enorme, quindi ci sta questo tipo di ragionamento. E secondo, poi anche nella rappresentazione grafica è veramente, secondo me è stato azzeccato metterci dentro Sorrentino, metterci dentro, cioè questa è una sorta veramente di città in movimento, no? Di città in movimento. Napoli e tutti quelli che in qualche modo sta simpatica Napoli e che in qualche modo stasera si faranno per lei. Leggo che c'è anche Veltroni in viaggio con De Laurentiis, quindi è pieno di gente che a Bari solo sta lì per. C'è anche Silvio, vedo ora Silvio Orlando. Silvio Orlando è tiposissimo doc, ma insomma, voglio dirti, è veramente una. Io credo che stasera è più di una partita, è una città. Napoli. Tutti i napoletani e tutti quelli ai quali comunque Napoli, anche se non sono di Napoli, in qualche modo sono simpatiche, le vogliono bene, sono contenti se c'è una soddisfazione dal punto di vista sportivo e dal punto di vista ovviamente poi invece pratico di questa città meravigliosa. Dal mio punto di vista, io penso che è veramente una di quelle notti che possono in qualche modo regalare una grande soddisfazione. Poi abbiamo imparato dagli esempi di Maradona che non sono gli scudetti che cambiano la vita delle persone, la realtà la cambiano tutte le persone, la cambiano le istituzioni, la cambiano i sindaci, la cambiano i cittadini, non è Maradona. Notti come speriamo questa possono aiutare. Buon umore te lo potrebbe dare. Senti, ma torniamo un attimo con Filippo a Barcellona, dove volano gli stracci. Luis Enrique pare abbia pure tentato di pigliare per il collo un giornalista fatto anche Maradona, ma è stato smentito con la sua fidanzata Rocio a Madrid. Quel giornalista non era Pardo, questo no, possiamo assicurarlo. Allora, io vi dico, una cosa però, bisogna mettere le cose anche nel contesto. Se voi pensate a... diciamo il grado di acidità di Luis Enrique quando vince, quando va, si trova, è costretto, perché lui non fa interviste, è costretto a fare la flash con le televisioni dopo le partite e non è mai contento di farlo, neanche quando vincono, e hanno vinto il triplete solo mesi fa. Sì. E se hai perso 4-0 cosa ti aspetti? Il minimo è che voglia menare il giornalista, cioè adesso, in senso figurativo, c'è un limite a tutto. No, questo è un limite, tra l'altro, però... di Luis Enrique, posso dirlo, perché è un limite in assoluto, ma è un limite che secondo me è ancora più pesante, perché invece Luis Enrique poi porta all'attenzione di tutti un calcio bello, un calcio offensivo, quando è venuto in Italia ha fallito, però lui è così, però ragazzi, calcistico, sì, no, dico, ha fallito dal punto di vista calcistico, ma dal sì, ma è un limite, ha ragione Pardo, deve darsi una calmata, certo. No, no, ma voglio, però, però si sa che è così, io, no, no, ma io non voglio giustificare niente ovviamente, però io sto cercando di spiegare che non è che adesso improvvisamente Luis Enrique è impazzito, no, Luis Enrique è una persona diciamo scontrosa, per dire proprio il minimo, no? Mm-hmm. Che non ha un buon rapporto con la stampa, così, e è costretto a fare questa cosa e reagisce male e va bene. Poi dopo la seconda parte è chiaro che dice adesso ieri sera nello spogliatoio sono volati gli stracci, cioè il malumore o la distanza tra Luis Enrique e i giocatori è evidente da tempo, però adesso non è che anche lì, questi sono gli stessi giocatori che due settimane fa hanno eliminato l'Atletico Madrid in doppia partita in semifinale di Coppa del Re, ed era lo stesso allenatore e gli stessi giocatori. È chiaro che una sconfitta del genere mette a nudo nervi già scoperti, questo d'accordo, però che la situazione, se il caos, quello che sto cercando di dire è che il caos è più generale, e questa è una partita che diciamo denuda, mette in chiaro alcune cose, però i problemi sono altri e sono, diciamo, lì da tempo. Cioè, e sono all'interno dello spogliatoio, tu dici. Sì, ma aspetta, sì, ma non solo, il problema vero è la dirigenza, una dirigenza che non c'è, è una dirigenza che pensa solo a far soldi e non hanno ancora rinnovato Leo Messi, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Leo Messi è a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Ma guarda, io ho come la sensazione che potremmo vivere un'estate rovente da questo punto di vista. Capito, non si sa chi è l'allenatore il prossimo anno, perché comunque... Posso dire una cosa forte, ma che in qualche modo è chiaramente condizionata al risultato di ieri. Barcellona ha avuto un brand, una filosofia, è un'icona talmente grande, talmente forte che a volte ci si dimentica delle cose banali. Io l'ho visto in questi anni raramente perdere, ma quando ha perso male, poi forse io sono fortemente sbagliato con loro, forse sono io che gli porto sfiga, non lo so, perché io ho raccontato quel Bayern Barcellona 4-0 con Villanova, quest'anno l'ho visto. No, era contata Martino, occhio, era contata Martino. Ha contata Martino. Era contro la partita, siamo sicuri? No, era con Villanova, con Villanova, c'hai ragione tu. Perché non era con Villanova, No, giusto, esce col Tata, escono con l'Atletico l'anno dopo, scusami. Esatto, no, tra l'altro c'ero anch'io. Quindi abbiamo scoperto l'untore. Ti dico questo, cioè il Barcellona è un tipo di squadra, è un tipo di filosofia talmente grande, talmente forte, quando è vincente e quando sta bene, che secondo me a volte si dimentica un po' del piano B. Se tu guardi la panchina, sì, c'era qualche assenza, ma ieri non è che c'era molto. E questo è un'altra caratteristica. Ma Barcellona non ha la panchina lunga. Qualche giocatore, no, secondo me... Guarda, sono totalmente d'accordo con te. Perché il piano B si vede, questa è ancora peggio, perché questa adesso si sono affidati al tridente, no? Perché adesso c'è anche gente che qua, tra i puristi, che criticano il fatto di essersi affidati solo al tridente. Però è così, manca completamente un piano B. Se i tre davanti non riescono a giocare, o perché non gli arriva il pallone, o perché sono in crisi quella sera, è finita, non c'è più niente. Quindi io sono... E questo è il grande limite del Barça. Però una cosa bisogna ricordare, adesso vediamo, perché qua si parla di fine ciclo e può anche... può essere, finisce tutto, anche le leggende. Però, questa è la squadra che ha tre attaccanti, probabilmente il miglior tridente del mondo. Ma certo. Ed è la squadra che nel 2015 ha vinto il triplete. Sì, sì, ma nel 2015 è passato qualche tempo. Ha talmente tanti soldi che si compra, faccio per dirti, Berratti, si compra per esempio il centrocampo del Paris Saint-Germain, lo metti nel Barcellona e vincono per 20 anni, perché poi Messi ieri ha fatto una partita che per me, io sono convinto che non era lui. Era un altro, era un sosia, perché veramente ieri io Messi così non l'ho mai visto, nel senso Messi ha sbagliato delle partite in carriera. Sì, allora, ma delle partite, ma secondo te possiamo essere al momento dell'addio anche di Messi, oltre che di questo Barcellona? Sì, è tutto aperto. Cioè io non vedo il Barcellona senza Messi e non vedo soprattutto Messi lontano da Barcellona, perché lì sta anche molto bene, attenzione, cioè lì ci sono dei legami forti. Le famiglie Messi e Suarez sono legatissime. Adesso io la bella Antonella, sinceramente a Manchester non ce la vedo passare dalla spiaggia di Castelldefels, no, alla periferia di Manchester o al, come si chiama, sì, Cheshire. Per cui ci sono tanti fattori da tenere in conto, e poi uno stipendio altissimo, però è chiaro che la situazione è completamente, tutto può succedere. può essere una crisi o può essere una catastrofe. Questo, o questo può essere semplicemente la fisiologica. Iniesta è un calciatore meraviglioso, 32 titoli in carriera, è un calciatore anziano. Busquets è un calciatore che ha avuto una condizione fisica enorme, una squadra perfetta, esatto. Era un giocatore che funzionava. Oggi tutti i limiti si vedono. E poi il peccato originale, ragazzi, scusate, c'è il peccato originale, che non c'è più Xavi Hernandez. Uno così non lo trovi. Ho capito, ma non è consunto, no? Si è esaurito semplicemente in maniera fisiologica. Sì, però mi pare che Pardo stia dicendo che sembra un Barcellona comunque a fine ciclo. Sì, delle cose le deve fare. Secondo me non è neanche così difficile farle, tutta la quantità di soldi che hanno. Cioè, quindi, però le devono fare. Cioè, un centrocampista alla Verratti, adesso io ho negli occhi Verratti perché chiaramente giusto. Ha un playmaker lì in mezzo al campo che ti faccia di Xavi, di Iniesta per i prossimi 7-8 anni, ti serve un altro grande centrocampista. Adesso c'ho in mente soltanto tutti quelli di ieri sera. Attenzione, stiamo parlando della squadra che ha dominato gli ultimi 10 anni, non è che il calcio è il limite, ma lo esageriamo. Stiamo parlando della squadra che ha dominato gli ultimi 10 anni, però di una squadra che, proprio perché è stata dominatrice e nei momenti meravigliosi è la squadra che ancora può fare l'impresa. Non credo possa ribaltare il 4-0, però comunque io Barcellona Paris Saint-Germain la voglio vedere come gusto, me la vedrò, no? Nel senso che comunque son curioso di vedere se qualcosa si inventano, quantomeno per renderla un pochino più interessante. E quindi stiamo parlando di una squadra incredibile che ancora oggi con Messi, con Suarez, con Neymar può fare cose grandiose, però è anche vero che è una squadra che ha perso in questi anni giocatori importanti, che non ha una panchina lunghissima, se non è stata un po' pigra in certe cose. Perché si è fidata molto di se stessa, no? Ha sbagliato, perché voglio dire, non puoi comprare, hanno comprato Arda Turan o André Gomes pensando che potessero sostituire non solo Xavi ma anche Iniesta, e non è così, no. Hanno sbagliato ci sono degli errori evidenti di programmazione. Lo stesso Rakitic per me non è assolutamente Verratti, no? Secondo me in questi anni, due anni fa, è stato il è stato un grande, adesso poi non fa benissimo, in questo momento non è una grande stagione, però insomma la mossa di Rakitic ha funzionato, ha portato anche dei risultati abbastanza. Sì. Arda Turan è stato un fallimento, André Gomes è arrivato da poco e per ora è un fallimento. Sì, è chiaro che non è il Barcellona di tutti i sogni e che un pesante maquillage quantomeno ce l'avrà bisogno in un nanosecondo. Filippo Mararicci, Toto Panchina per sostituzione della diciamo così esuberante Luis Enrique, già partito, con i bookmakers inglesi che vedono Giampaolo, c'è chi dice Ronald Koeman, c'è chi così suggerisce anche il nome di Allegri. Guarda un po'. No, io vedo Valverde e Giampaolo sono le due candidature. E anche Giampaolo straordinario. Posso dirti una cosa, che per uscire da tutto questo, premesso che stiamo parlando della squadra migliore degli ultimi 10 anni, forse un allenatore tra virgolette normale, cioè un allenatore all'Ancelotti, un allenatore all'Allegri, un allenatore di Valverde questi qui è abbastanza normale. Valverde è abbastanza normale. Allora mi prendo uno un po' più sulla cresta dell'onda, no? Ma lui perché è stato lì. Siamo già partiti, io e Pardo, con la sponsorizzazione di Allegri al Barcellona, signori. Allegri sta bene alla Juve, ma vedrai che va via. Pier, ricominciamo a chiacchierare tra un attimo. Sì. Saluto Filippo Mararicci. Ciao Phil. Ciao cari. Ciao, a domani naturalmente. Borsa, torniamo. Tutti convocati. Sono Enrico Ruggeri, questa settimana storie a tinte forti al Falco il Gabbiano. La sciagurata vita di Marianna De Leiva, la scandalosa monaca di Monza. Un folle genio del calcio con delle punte di cattiveria, Omar Sivori. E poi voliamo sulle ali di carta con l'eroe della Via Pal raccontato da Ferenc Molnar, Nemecek. Avrebbe potuto essere uno dei Beatles, ma nella sua brevissima vita ha scelto la pittura. Stuart Sutcliffe. Poi l'astronauta rimasto ostaggio nello spazio, Sergei Krikalev. Tutti i giorni alle 15:30, naturalmente su Radio 24, il Falco il Gabbiano. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. Tutti convocati. Sappiamo che per noi è anche importante arrivare a vedere a che punto siamo nei confronti delle squadre top a livello mondiale, però comunque la prima considerazione che deve fare la squadra e che devo fare io è che è molto bello venire a Santiago Bernabéu a giocare contro il Real Madrid, e vada come vada. No. Non è un problema per noi. Noi sappiamo che la partita non va a essere facile, abbiamo noi una squadra per fare anche bene, è una buona eliminatoria con due grandi squadre e niente, vediamo lo che passa queste due partite. Sono 180 minuti dove vogliamo fare il nostro gioco, vogliamo mettere in difficoltà il Real. Sicuramente sarà difficile perché loro sono il attuale campione d'Europa, però noi arriviamo con la convinzione e con la consapevolezza di che possiamo fare grandi cose e siamo una grande squadra. Forza Napoli! Mi è piaciuto questo Marco Perinazzo qui con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sa, questo inno della Champions con mandolino. Molto suggestivo, devo dire. Mi domando che ci fai qua, te l'ho già chiesto prima. Cioè, sono le 24 ore, sport e business, eccetera, ti hanno inchiodato. Sì, libri vari da scrivere. Devo dire che ti hanno inchiodato. Sì, però sto vivendo con grande tranquillità questa vigilia. Non stamattina. È vero. Alle 6 mi sono svegliato, vero, ero sudato e mi sono reso conto che avevo fatto un incubo. Sì. Ero all'esterno del Santiago Bernabéu, sì. era tutto fuori, non c'era nessuno perché tutti erano dentro e si sentiva, sì, questo ribollire di tifo all'interno dello stadio. Io non trovavo la porta d'ingresso dello stadio. Ecco, quest'incubo mi ha fatto svegliare alle 6 e poi ho iniziato a ricevere messaggi, insomma, di tanti amici che sono lì, e devo dire un po' di magone per non essere... Non essere nella capitale spagnola a vivere, insomma, l'emozione, sì, di questa vigilia. Sarà provinciale, ma così è. Ma che provinciale? Antonio, facilissima la Antonio Giordano, appunto, non abbiamo chiamato Freud, ma Antonio Giordano. Ragazzi, il sottofondo è della Gran Via, se vi basta. Sì, ma sappiamo con chi sei. Passacelo subito, Giordano, scusa, vogliamo bene, ma per noi conta solo lui. Passacelo. Non c'è. Ma chi? Mi ha mandato una foto un minuto fa, e lui, De Luca, mi ha mandato una foto che stava insieme. No, ma non è con me, era con me. Era con me. Ora non è con me, è una foto di un'ora fa. Quindi mi scusi, lei può confermare di aver visto il signor De Luca Giorgio? In persona, in casa ed ossa. Intorno a che ora l'ha incontrato per l'ultima volta? Intorno alle 13:15, eravamo in Plaza Maiorca. Ma che sei? La Guardia Civile? Sei la Guardia Civile, pardo. Era visibilmente scosso? Era visibilmente scosso, devo dire la verità, sì. Non mi sembrava in condizione di intendere e di volere. Vabbè, questo pure normalmente, se posso dire. Quindi questo non è rilevante, diciamo, è abbastanza normale. Non è l'edizione spagnola, ecco. No, non è. Allora ragazzi, mentre Marco Perinazzo fa sogni di facile lettura, sì, freudiana, sono gli effetti della Champions sui napoletani. Marco, ci sono più napoletani qui in questo immagino. Non so in quale parte della terra, credo a Napoli. Sì, e Perinazzo non sta bene, è pallido con un cencio. Questo ve lo posso dire io perché non so davanti che parli a Parigi, Parla a Parigi. No, ma pure qui in aeroporto ho incontrato una ventina di napoletani che stanno andando in qualche modo facendo delle strane triangolazioni aeree, stanno andando a Madrid. Quindi c'è chi è arrivato facendo Oslo, è un classico dell'aviazione, il Napoli Oslo. Anche perché è qui vicino, no? D'altro caso. Certo. Vabbè, ragazzi, non potete sfuggire al pronosticone, né Berinazzo né Antonio Giordano. Beh, come si fa a fare un pronostico? Lo so che è crudele, ma io sono crudele. Crudele, ma insomma, io mi accontenterei di un gol. Ti accontenteresti di un gol? Di uno o due gol fatti a Madrid, indipendentemente dal risultato, per poi avere un bellissimo momento al ritorno. Dove andrai? Sicuramente, con certezza. Antonio? Vuoi il risultato? Sì, il risultato esatto? Sì, grosso modo sì. La sparo? Sì. Così perlomeno mi faccio un po' di simpatia. 1-3. 1-3. Ammazza, Pardo. Ma almeno alla vigilia ha regalatoci un sogno. Ah, ma certo, no, ma io infatti... Poi dopo vediamo. Niente da dire. Diranno che sono un imbecille, ma non mi sembra neanche una grande novità. Quello che voglio chiedervi, prima di parlare di fatturati, la squadra che ha fatturato minore... Livello maggiore. Livello maggiore di questi ottavi tra Napoli. Fatturati che Sarri ovviamente non sventola al momento, li sventolerà nel momento in cui dovesse uscire, di questo sono abbastanza certo. Beh, credo che non ci sia meno bisogno in questo caso di sventolarli, perché il Real Madrid ha un fatturato al momento intorno a 620 milioni destinato ad andare verso il miliardo nel giro di un paio d'anni. Il Napoli si ferma sotto i 150, quindi parliamo di quasi 500 milioni di distanza tra i due club, ripeto, destinato questo gap ad allargarsi, il che, se vogliamo, rende ancora più affascinante la sfida, perché i fatturati incidono, diciamo, sulle gare, se vogliamo fare una metafora con l'Atletica, di mezzo fondo, a 200 in su, sì. Ai leve più grandi riesci, sì. Fai meno fatica. Sì. Nelle gare brevi di velocità, dove può contare anche la potenza, contano altri fattori, ecco allora diciamo che il calcio che mantiene il suo fascino nonostante i soldi. Diciamo che, come dico spesso, andassi in campo l'estratto conto, non accenderemmo neanche la TV, e invece l'accenderemo. Io voglio fare una domanda a Pardo e a Giordano. Ma può davvero contare così tanto in questa doppia sfida il fattore S, cioè il fattore Sarri? Lo scrive ad esempio Sconcerti, un'altra S, sul Corriere della Sera di oggi. Può essere davvero la carta che spariglia? Sicuramente, cioè, se il Napoli ha delle possibilità ce le ha, perché... Perché? Mi è caduto Pardo. Vai avanti tu Antonio. Sto con Pardo, inevitabilmente con Sconcerti, anzi soprattutto con Sconcerti. Il fattore Sarri è, come dire, il valore aggiunto all'interno di una partita che altrimenti rischierebbe di non aver senso in questo momento. È la novità assoluta del calcio italiano e direi del calcio europeo, è la capacità di essere squadra con il contenuto tattico e persino fuori dal contenuto tattico, perché, lo dico senza retorica e anche senza enfasi, non mi sembra di vedere in giro squadre che dal punto di vista offensivo siano in grado di produrre talmente tanto. Poi ieri sera il PSG ha dato la cresta e siamo ben contenti che ciò sia accaduto. Beh, vuol certo. dire che si sta in compagnia, almeno si spera. Ma una grande debacle delle teste coronate spagnole, perfidamente io me l'auguro, ragazzi, cioè non sto a nascondermi. Avrà il coraggio di guardare verso l'alto il Napoli? Antonio? Ma credo che sia importante guardare negli occhi il Real Madrid e sfidarlo senza aver paura. Poi alzeranno la testa alla fine e vedranno come è andata a finire, magari con gli occhi meravigliati, che lo so. O magari ci stiamo facendo tutti un gran bel film, un cine panettone. È una partita che si gioca. Potersela andare a giocare sapendo di andarsela a giocare mi sembra che sia una grande virtù. Assolutamente. Antonio, ti ringrazio, ci sentiamo semmai domani, perché domani non so cosa può succedere. Ringrazio Antonio Giordano, inviato al Corriere dello Sport. Saluto anche Pierluigi Pardo, che deve prima o poi tornare da Parigi. Prendo in aereo. Ci vediamo domani. Ok, mi tengo Marco Berinazzo, ci vediamo per il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Io invito ovviamente gli ascoltatori 800 24 00 24, numero verde, un paio me li sono persi per strada, chiedo scusa, era Carmine d'Avellino e un altro in precedenza, ma eravamo infoiati in una discussione sul Barcellona, non lo siamo sul Napoli, ma c'è spazio anche per loro naturalmente se ci chiamano. Tra l'altro, Marco Berinazzo, stavamo dicendo, ragionando sui fatturati, che dico, Sarri non ha ancora sventolato, non ha bisogno di farli. Certamente, non dovesse andare bene, li sventolerà, Giusto per ricordarli. Assolutamente, per ricordarli. Credo che siamo in una condizione davvero classica sfida Davide contro Golia. No, ma infatti, guarda, la prima pagina della Gazzetta dello Sport oggi è meravigliosa, l'hai vista anche tu. Sì, è un popolo che va verso un sogno, no? Era, dispiace perché fino a pochi anni fa, diciamo, non c'erano gap economici, non erano così palesi dal calcio italiano e il resto d'Europa. Oggi ci sono, Paris Saint-Germain ha surclassato il Barcellona, ma il Paris Saint-Germain ormai ha più di 500 milioni di fatturato e può permettersi, per esempio, Edison Cavani, oltre a Di Maria, oltre a Verratti, oltre a tanti giocatori che ti permettono di affrontare in equilibrio determinate sfide. Poi puoi vincere, puoi perdere, questo il calcio è meraviglioso proprio perché non c'è un effetto automatico, per fortuna. Questo è chiaro. Quanto vale per il Napoli questa partita? Beh, così molto, in maniera, guarda, molto cruda. Di per sé, pensando che ci sono 4 milioni e mezzo incassati per un ottavo di finale, sì. Pensiamo a cosa potrebbe rappresentare al botteghino un quarto di finale dopo una vittoria con Real Madrid, più un'altra 10-15 milioni legati, insomma, ai premi UEFA, sì. E quindi parliamo di una quindicina, 20 milioni che si potrebbero... Questo doppio confronto vale una ventina di milioni. Passarlo vale una ventina di milioni, anche in funzione, questo poi già dipenderà da cosa farà la Juventus, insomma, immagino che abbia meno problemi del Napoli ad affrontare e superare il Porto, il che come si determina quel difficile meccanismo di ripartizione, certo, però certo. È evidente che soprattutto poi dobbiamo ragionare su quello che potrebbe rappresentare superare un turno, battere i campioni d'Europa e del mondo in termini poi di attrattività per gli sponsor. Ma no, ma è ovvio, il Napoli, per esempio, ci può essere un indotto. Esattamente, il Napoli e il calcio italiano calcolabile, in generale calcolabile. Non hanno sponsor internazionali, si contano, cioè forse Emirates sul Milan, se vogliamo considerare Jeep, Chevrolet per la Juventus, sì, un marchio internazionale, ma poi non è perché è un marchio di casa, non ce ne sono. Famiglia. Pensiamo al fatto che Real Madrid in questo momento è con Adidas, per esempio, per quanto riguarda. Ecco, adesso ne parliamo di questo perché è interessante. Carmine, buongiorno. Buongiorno. Scusi se l'ho fatto aspettare prima, ma eravamo. Non si preoccupi. Posso digirmi. Dica. Anche perché la mia è una telefonata frivola, nel senso che io volevo comunicare tutta la mia felicità, sì. Prima di tutto per la partita, diciamo, che ho visto in TV ieri sera, sì. Sono una di quelle che ti restano, ecco, proprio sulla pelle, sì. L'altra è che ho, diciamo, sentito via radio che hanno individuato gli 8 gentiluomini che sabato io chiamo da Avellino, quindi sono, vabbè, tifo Roma, però comunque, ecco, nella mia città si è verificato un fatto, sì, molto, diciamo, ecco, alla sua città ci tiene, alla sua città ci tiene, antipatico, sì. E quindi, diciamo, sono contento di questa notizia, ecco, che hanno individuato questi 8 gentiluomini, questi 8 galantuomini, sì, bravo. E vorrei fare un abbraccio forte al caro Alessandro Florenzi, visto che ho saputo anche che, diciamo, ha avuto una piccola ricaduta al ginocchio, quindi, ecco, volevo approfittarne del vostro mezzo per fargli un... Florenzi ha avuto una distorsione al ginocchio già operato, che più sfiga di così si muore, da valutare, verrà valutato in tempi brevi, ma trattasi di distorsione, quindi saranno tempi di recupero un po' più lunghi. Giorgio De Luca! Come va? Noi va bene, fammi un favore, appena chiudiamo il collegamento chiama Pardo, che è preoccupatissimo per te. Perché è preoccupato? No, volevo sapere... Ma io sto benissimo qui, ragazzi, sono al mercato di San Miguel. Sì? E sembra di stare alla stazione centrale di Napoli, in pratica. Ci sono solo napoletani. Sì? Hanno invaso il mercato per mangiare tapas. Sì? E per prepararsi al meglio tutti insieme per la partita di stasera. Tra l'altro non so se avete dato già la notizia che la partita di stasera è sold out. Beh, non ci sono più biglietti a disposizione. Grandi dubbi non ne avevamo. Se avessi comunicato voluto, poco se, fa se avessi voluto prendere un volo privato. Ma io ho una domanda per il professor Belinazzo. Sì? Ma questa passione dei napoletani che in 10.000 sono arrivati qui a Madrid. Come si concilia con l'idea di De Laurentiis di fare uno stadio da 20.000 posti gratis per i meno ambienti? Non si concilia, se non magari, ecco, con le tasche di Laurentiis, che più di 20.000 posti in uno stadio, insomma, non può come dire, costruirselo. Ma è chiaro che lui ha un'altra idea, insomma, che adattissima per altre piazze, non credo che per la piazza napoletana. Ma ci sarà tempo. Diciamo che se poi vogliamo fare un ragionamento economico, affinché sia redditizio per tutta una serie di motivi che oggi non tocchiamo, uno stadio deve essere almeno da tra i 50 e i 60 mila posti. Sì. Giorgio Giordano prima ti ha detto che di averti visto pallido e provato. Confermaci. Non è che... vero, non è vero. L'ho incontrato, come ho incontrato tanti altri colleghi in Plaza del Sol. Sì. In Puerta del Sol, dove ci sono non tutti sei pallido i collegamenti. Provato. Delle... Va bene. No. Sono facciamo abbastanza tranquillo. Poi lo... diciamo che lo sarò forse un po' prima della partita, dai. Però per adesso si sta... per adesso è una festa e sono contento che qui stia andando tutto bene. Sì. E che ci siano tanti napoletani che si stanno comportando alla grande e una festa continua qui in una Madrid super soleggiata. Non stanno buttando le carte a terra, visto che il sindaco di Madrid, la sindaca di Madrid, insomma, si è raccomandata che sia una non festa. Non buttate sì, le carte è stata a la sua raccomandazione. No, voi no, o napoletani. No. Non so, ha detto no, questo. Per adesso una bellissima festa colorata. Benissimo. Vabbè, Giorgio! Ciao bello! Ti abbracciamo forte! Ti abbracciamo forte! Ciao Giorgio! Senti, vorrei chiederti la casa, la serata a casa a Belinazzo, ma non voglio infierire. Mannaggia il tempo come scorre di questa clamorosa offerta. Guarda, tanto è solo per invidia, insomma, che lo diciamo. Sì. È con Adidas, Real Madrid ha un vecchio contratto che vale 40 milioni. Il Manchester United ne prende 90 da Adidas. Mm. Ovviamente Florentino Perez ha chiesto più soldi. Forse potrebbe intromettersi Under Armour, che è un marchio americano che si sta molto facendo spazio. È quello che sponsorizza il Tottenham. E sponsorizza tra l'altro Steph Curry, Tom Brady e altri sportivi. Esattamente, quindi vorrebbe entrare nel calcio clamorosamente e potrebbe offrire tra i 120 e i 130 milioni a stagione, quindi o dall'Adidas o da Under Armour Real Madrid li prenderà, ed era il discorso che dicevo prima, per cui il fatturato dei Blancos è destinato ad andare verso il miliardo. Under Armour che vuole fare quello che grosso modo la Nike fece a suo tempo con Michael Jordan, facendo l'all-in su, loro lo fecero su un giocatore e loro lo farebbero su una grandissima squadra. In bocca al lupo. Crepi bocca al lupo, ci sentiamo domani, a domani in qualche maniera. Ciao Carlo, comunque ciao a tutti. Vada. Ciao Marco Verinazzo, ci torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Tutti convocati. Allora ripartiamo dai nostri mille temi, dalle nostre mille speranze per il Napoli di questa sera a Madrid. 800 24 00 24 è il numero verde. Sandro Sabatini, padrone di casa nello studio Champions di Mediaset Premium. Ciao Sandro. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Anche tu, come tutti gli altri, non puoi sfuggire al gioco del pronostico. Ma il pronostico, come al solito, è diviso tra cuore e testa. Il cuore dice che il Napoli fa un'impresa, la sensazione. La testa dice che si trova di fronte la squadra campione d'Europa e campione del mondo, quindi si vorrebbe anche che la testa desse un colpo al cuore e gli dicesse stai zitto, se non altro per scaramanzia, ecco. Sì. Come abbiamo, ma sei d'accordo anche tu, come abbiamo prima insomma sottoposto ai nostri tanti ospiti, sei anche tu d'accordo sulla ipotesi che Sarri possa essere davvero la carta che spariglia, che possa essere davvero l'uomo più importante del Napoli questa sera, in questa doppia sfida? Sta circolando sui social un ricordo, tra l'altro ha datato 18 febbraio del 2007, quindi esattamente 10 anni fa, di un Napoli-Arezzo con Sarri sulla panchina dell'Arezzo, è finito a 2, con i giocatori più famosi nell'Arezzo, peraltro erano Ranocchi e Floro Flores, quell'Arezzo allenato da Sarri che aveva preso il posto di Conte, poi l'aveva lasciato a Conte, quell'Arezzo che poi andò a finire in Serie C1 o Lega Pro, non mi ricordo come la chiamava 10 anni fa. Sì. È chiaro che uno che ha una carriera così spariglia, perché spariglia la storia, se non altro, la sacralità, la solennità di questa partita. Poi io devo essere sincero con gli ascoltatori, quindi tutti convocati. Io non conservo un minimo dubbio che l'atteggiamento tanto sarriano o sarresco, non so come si dice, di ieri, perfino esasperato nella sua convinzione, la faccia tosta, non guardo in faccia nessuno, tre o quattro punte e giochiamo all'attacco, non nasconda anche un filo di timore, per cui sai, magari ostenti anche quello che è un di più per non manifestare neanche la minima screpolatura di timore. Questo non so rispondere. Su una cosa invece credo di poter dare un consiglio a Sarri, no, perché un consiglio a Sarri non sono assolutamente in grado di darlo, almeno tecnico, ma strategico sì. Ecco, che né Sarri, né i giocatori, né il Napoli, nemmeno i tifosi perdono di vista che comunque questa è una partita di 180 minuti. No, chiaro, questo è chiaro. Questo è chiaro, ma a me fa molta paura l'emotività che questa partita ha suscitato, fatalmente io credo anche nella squadra, perché o la chiudi nel cielo, fan, o non puoi non sentire l'eco dei 10.000 napoletani che vanno a Madrid. Cioè, per Napoli è la finale di Coppa del Mondo, come mi ha detto ieri, mi ha confessato ieri un ascoltatore, perché così è. Quindi forse questo è molto difficile da gestire anche per uno come Sarri. Ascolta Sandro Sabatini, oltre al mal di pancia di Ibrahimovic che sento io qui a Milano, tu sei a Milano pure tu e lo senti anche sì. tu, lo sentiva Pardo a Parigi, lo sentiva Filippo Maria Ricci a Madrid, oltre al mal di pancia di Ibrahimovic, dopo quello che è successo ieri sera a Parigi, senti anche il fruscio della soddisfazione juventina, come se si dicesse un babau in meno? Con un po' di cautela, però. Un po' di cautela dovuta a un motivo molto semplice. Qui non voglio citare una frase fatta che peraltro Allegri, per esempio, a proposito di Juventus, ha utilizzato più volte nel tardo autunno e primi giorni d'inverno. Cioè, la Champions a marzo è tutta un'altra cosa, è tutto un altro torneo. Già nelle prime due di ieri le squadre favorite hanno vinto, una nettamente e già ipotecato la qualificazione, un'altra fortunosamente. Sì. Questo che significa? Che attenzione prima di dire la Juve eliminiamo il Barcellona, eliminiamone un'altra, così ancora più la strada spianata. La Juve inizierà fra una settimana un altro torneo, sembra dai presupposti che stia molto bene. Però guardate che la Champions League ti scrive delle pagine di storia quando meno te l'aspetti, perché ieri è stata scritta la pagina alla fine del Barcellona. No, ma è chiaro, sono d'accordo con te. Barcellona. Di questo tutto ha una fine. Solo un diamante per la vita, diceva un vecchio slogan, forse nemmeno quello. Forse potremmo assistere all'estate del trasloco di Messi, magari anche di Cristiano Ronaldo. Questo è tutto in divenire. Quasi certamente assisteremo all'addio di Luis Enrique al Barcellona, un Luis Enrique nervosissimo, oltre i limiti del suo carattere che già è fumantino, in rotta con le sue stelle. Ci sono i nomi di Valverde, di Sampaoli. Io ci metterei, prima giocando o scherzando, c'era anche Filippo Maria Ricci collegato, ho buttato lì anche quello di Allegri. Guarda, io ti dico una cosa, Braida non credo che abbia un ruolo centrale nel Barcellona, anzi secondo me ha un ruolo molto periferico, moltissimo periferico. Però Braida, se deve spendere una parola buona per un allenatore che può prendere in mano il Barcellona e portarlo nella transizione, come ha già fatto nel Milan e nella Juventus, spende una parola per Allegri, questo ne sono sicuro. Sì, sì, ma anche perché la Barcellona serve un normalizzatore, come può essere, come è ovviamente Carletto Ancelotti, che tra l'altro sarà protagonista di un'altra grande partita, uno degli ottavi di finale forse più incerti, anche se io all'Arsenal credo fino a un certo punto. Sentiamo Ancelotti, allenatore Bayern Monaco. L'obiettivo è quello di fare il massimo in tutte le competizioni, come la Bundesliga, la Coppa dei Campioni. Bundesliga è diversa perché qua ci giochiamo la qualificazione in due partite e tutti sanno che la Champions League è, diciamo, una situazione diversa per questo motivo. Siamo arrivati bene, sono contento della condizione della squadra fino a questo momento, vediamo domani. E se uno che, se c'è uno che il domani della Champions League lo conosce bene, è Carletto Ancelotti. Io mi gioco il Bayern senza troppa esitazione in questo doppio confronto. Mi piace che ti giochi il Bayern, mi piace ancora di più che Carletto Ancelotti. Allora, tu sei l'unico ancora che lo chiama Carletto, quest'uomo di quasi 60 anni. Anzi, no, in realtà non sei l'unico. Lui è ormai l'unico che la chiama ancora Coppa dei Campioni. Esatto, siamo un po' d'antan, cosa ci vuoi fare? Siamo un po' vintage. Ecco, però in quanto a età, siccome io non posso schernire nessuno, è bello sentire ancora Carletto Ancelotti ed è bello sentire ancora Coppa dei Campioni. Coppa dei Campioni, certo. Sì. No, comunque è un po' un indicatore, direi, questo Bayern-Arsenal, mi sembra un indicatore di una Champions che fino adesso, contrariamente agli altri anni, sembra, complice anche il risultato di Parigi di ieri sera, non avere un particolare padrone. No, non ha un padrone, questo è vero. Ha un padrone, però adesso i cinque padroni che erano immaginati anche dai pronostici, dei bookmakers, hanno cambiato. Il primo, il favorito, cioè il Barcellona, è stato scalzato dal Paris Saint-Germain, che non veniva considerato un passo sotto Real, Bayern, City, Juventus e appunto Barcellona. Ecco, c'è il Paris Saint-Germain. Io credo che non sia episodico quello che è successo, che abbiamo visto ieri al Parco dei Principi con la testimonianza di Pierluigi Pardo, perché è troppo mostruoso per essere soltanto un episodio quello che abbiamo visto ieri. Ma dico, nel gioco, negli uomini, e poi è chiaro che raccontiamo la storia la scrivono i vincitori. Se avesse preso un gol, tutti avrebbero detto che Unai Emery, anziché essere un fenomeno, era un fesso, perché aveva sostituito Di Maria, eh? Sì. E noi invece, scommetto che non è ancora parlato, no, da quando è iniziata la trasmissione, di questo, come è normale che sia, come non, no, c'è, non ne ho ancora, non ho ancora parlato, mi sono limitato però a snocciolare il curriculum di Emery, che è impressionante. 29 scontri di eliminazione diretta, ha passato il turno 25 volte, quindi eliminato solo 4 volte, l'ultima delle quali nel 2012 contro il Barcellona. Fino a ieri aveva vinto una sola volta con 6 pareggi e 16 sconfitte. E c'è di più: chi batte 4-0 il Barcellona alza la coppa negli ultimi anni. Ah, ecco, questo è un dato che non sapevo e questo è un dato sicuramente che farà Atene, piacere. Atene, Milan nel 94, 2013 Allianz Arena, semifinale contro il Bayern Monaco. È vero, e questo è sicuramente un dato molto interessante. Io credo che Unai Emery sia comunque un'immagine forte del Paris Saint-Germain, ma che è soprattutto una squadra forte, perché comunque quando guidava il Siviglia vinceva l'Europa League, con il Siviglia aveva il resoconto, che le statistiche che tu hai appena annunciato con il Barcellona. Adesso, rileggendo la formazione, ripensando agli investimenti, riguardando anche le giocate di alcuni giocatori che noi probabilmente non consideravamo fino a ieri sera per quello che meritano, e faccio riferimento a Rabiot, per esempio, certo. Io credo che questo Barcellona abbia un 7, 8, forse 9 undicesimi di campioni. Sì, questo Paris Saint-Germain intendi. Il Paris Saint-Germain, perdonami, sì, il Paris Saint-Germain. No, invece il Barcellona, così approfitto del lapsus per completare, mi sembra che sia ieri sia stata la fine di Iniesta. Ah, ma fisiologico, è triste, cioè, fisiologico, vedere un tramonto può essere bellissimo ma anche struggente, no? Ma può essere perfino la fine del guardiolismo, eh? Guardiamo la stagione del Manchester City, non mi sembra stellare quella la prima di Guardiola, anzi non lo è per niente. Chissà che si ritrovi con Messi l'anno prossimo, su questo qualche dubbio. A proposito di tramonti, questo è crudele, ma c'è quello dell'Ester, altro allenatore italiano in gioco per la Champions League contro un Siviglia abbordabile, ma gli è rimasta alla Ranieri, è rimasta in mano la sabbia dell'Ester che fu. Sì, io credo che sia, poi la verità è che il valore della squadra, io credo che sia un'equa divisione tra l'anno in cui ti va tutto bene e l'anno in cui ti va tutto male. L'appagamento, la pancia piena, noi stiamo verificando in maniera clamorosa che cosa significano queste che sembrano frasi fatte, però è evidente che una banda di semi sconosciuti o miracolati, come l'anno scorso era il Leicester, si ritrova adesso a gestire popolarità, soldi, fama, trofei, eccetera, e la, quasi la partita, le partite arrivano all'ultimo momento e uno dice già alle 2:30 o alle 3 devo andare a giocare a pallone. Ecco, questo secondo me sta succedendo all'Ester, l'anno scorso invece succedeva tutto il contrario. In questa situazione poi c'è anche Ranieri, che ho visto che ieri era premiata all'Aures Award lì a Monte Carlo. Cioè, e Ranieri credo che abbia fatto incetta di premi come mai in vita sua in pochi mesi, da giugno a oggi. E credo che anche lui, da persona intelligente ed esperta qual è, sappia benissimo che comunque raddrizzare una stagione così complicata, così messa male, potrebbe diventare un'impresa più difficile persino del titolo. Assolutamente, a quest'ora sì, a quest'ora assolutamente sì, perché mi sembra una squadra totalmente in caduta libera, con insomma Ranieri che fa intendere non credo più nei miei giocatori, cioè è venuta meno quella fiducia, quella colla che legava la squadra, la legava alla portata in cima al palazzo, e cadere da lì fa male, è difficile, è complicatissimo, ma lo sappiamo anche nelle storie del campionato italiano. Storia del campionato italiano, per chiudere, Sandro Sabatini, voce di Sebastiani, presidente del Pescara, dell'altro ieri ma attualissima. Mancano 14 partite e alla dignità non si può rinunciare, sicuramente si può rinunciare alla categoria, ma a malincuore, ma non si deve rinunciare alla dignità, perché poi per molti di questi ragazzi significherà ripartire qui a Pescara e loro ci tengono a che in ogni caso si riparte col piede giusto. Dunque, a Oddo è stata risparmiata la sofferenza delle ultime partite. Io la leggo così, si parla ora di Zeman, il quale dice che tutto può succedere, enigmatico come al solito, però uno dei contattati è lui. Ma sì, si è preso febbraio, marzo, aprile e maggio, 4 mesi di apprendistato, no? Sebastiani, Pescara, sì. Di lavorare per l'anno prossimo. Secondo me la mossa di Zeman ha, come al solito, una doppia valenza: una è affettiva e sentimentale, un'altra è mediatica. Esatto, sì, l'altra è mediatica. Zeman, dalla sua, negli ultimi ormai tanti anni, ha soltanto un campionato bello, forte, trionfale addirittura, appunto quello di Pescara. Sai, quando uno è un idolo per molti, perché è trasversale Zeman, però effettivamente poi chi lo prende ad allenare sono pochissimi. Credo che Pescara sia la soluzione migliore, sia per Zeman sia per il Pescara stesso. Sì, senza dimenticare che la squadra che aveva in mano allora, perché guarda dove sono. Uno gioca al Bernabeu stasera, un altro gioca molto bene nella Lazio, un altro ha dato 4 schiaffi al Paris Saint-Germain, posso andare avanti nell'elenco, ma è inutile. Va detto che Zeman li pescò tutti dalle squadre primavera o quasi. Di conseguenza può ripetere lo stesso esperimento, perché magari di Gagliardini, tanto per fare i nomi più negli occhi, sulla bocca di tutti, magari ce ne sono tanti e noi non li conosciamo, chi è più attento osservatore magari li conosce, quindi Insigne, Immobile e Verratti del 2018 magari Zeman ce l'ha già scritto su qualche taccuino, perché mi viene difficile immaginare Zeman con un PC o con un tablet. Molto difficile. Io non sono mai stato uno zemaniano di ferro, anzi, però certamente può essere una mossa, quantomeno dal punto di vista mediatica, corretta. Grazie Sandro, buon lavoro per questa sera. Ciao, grazie a voi, è stato un piacere. Ciao, un abbraccio, Sandro Sabatini. Riccardo dalla provincia di Frosinone e Alessandro dalla provincia di Monza non possono sfuggire al ormai irrinunciabile pronosticone per stasera, al famigerato pronosticone per stasera. Riccardo, ho avuto paura. Riccardo, ha messo giù? No? Pronto? Riccardo ha avuto paura. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, ho paura anche lei del pronosticone per stasera. No, dai, assolutamente no. Si esponga. Io dico io X2, però sono più propenso sull'X. X con gol? Sì, perché vedo bene il Napoli dei tre davanti. Sì. Voglio dire, Sarri era partito con un'idea di Caglion e Mertens barra Insigne con Milik davanti, e secondo me questi tre piccoli faranno far fatica, molta fatica ai difensori della Madrid, sì, perché in Spagna sì, sì, si difende diversamente che in Italia e li vedo bene. È una chimica, no, ma è un'opinione corretta, eh. È una chimica perfetta questa per mettere in difficoltà il Real Madrid, ma anche con le ripartenze veloci che il Napoli ha quasi sperimentato nell'ultima partita contro il Bologna, quindi è la possibilità, certamente è una delle possibilità per mettere in difficoltà il Real Madrid. Dica, oltre al pronostico. Pronto? Sì, pronto. Voleva dire dell'altro? No, volevo dire questo, che secondo me certo, Napoli era corretto. Lo vedevo bene per questo motivo, tutto qui. Molto bene, lo scopriremo questa sera 20:45. Salute, ringrazio Flavio Vanetti, invece inviato del Penne Illustre, Corriere della Sera. Ciao Flavio. Ciao a tutti. Per parlare di altri stracci che volano e non sono quelli dello spogliatoio del Barcellona ieri sera, sono quelli che volano dentro a casa Italia ai mondiali di St. Moritz di sci. Cos'è successo? Che sta succedendo? Prima di tutto sta succedendo che rispetto alla settimana fa quando ci eravamo sentiti, purtroppo la situazione è rimasta immutata, zero medaglie. E ahimè, rischiamo un secondo cucchiaio di legno consecutivo. Sì, stiamo navigando, speriamo di dare una bella sterzata all'ultimo momento. Poi, vabbè, insomma, in questi giorni c'è stato un po' così di... Non si può arrivare ovviamente a parlare di grandi cose, eccetera. I casini dentro i gruppi delle squadre sono ben diversi, però sicuramente c'è stata una certa situazione che si è un po' creata tra Federica Brignone e Sofia Goggia, la Sofia Goggia, perché insomma a tutti non era sfuggito che dopo la rinforcata in combinata la Federica, peraltro con una certa sincerità, ha detto hanno vinto le migliori. Ecco, forse quello che si è un po' voluto far notare è stata la mancanza mai di delicatezza nei confronti della compagna, che poi in quel momento era saltata. Vabbè, poi la cosa ovvio, smentite contro smentite, la stampa che ingigantisce tutto. Poi siamo arrivati alla conferenza di ieri, quando a una precisa domanda Sofia ha detto la domanda era che cosa ti aspetti da qui alla fine del mondiale, e in particolare con il gigante anche poi per il resto della stagione, e la sua risposta è stata di restare assieme alle migliori, come dice qualcuno. Si è reso conto che l'aveva anche, cioè secondo me era premeditata, ma nel senso voleva fare una battuta ironica, magari probabilmente anche per drammatizzare un po' la situazione, però è evidente che questo è anche un po' il termometro di una certa situazione. Peraltro, ripeto, nessuno deve fare, come dire, quello che casca dal pero. È evidente che lo sci è uno sport prima di tutto individuale, nel quale poi ci sono anche degli interessi e delle esigenze di una squadra, e devo dire che ieri comunque Sofia è stata anche molto chiara nello spiegarlo. Quando si parlava di obiettivi comuni, le ha spiegato che ci sono in realtà degli obiettivi in comuni, perché comunque ciascuno di loro bada prima di tutto a se stesso. Ed è così, insomma, un po' di ipocrisia è così. Ecco, vediamo, insomma. Però domani speriamo che alla fine un po' tutto questo venga accantonato, che sappiano sciare da par loro. Tutte e quattro, lei, la Bassino, la Brignone, la Goggia e la Mölgi, sono state sul podio quest'anno nella specialità, e Federico Brignone addirittura ha vinto il 25 gennaio scorso a San Vigilio di Marelli. Sì, pensare a una medaglia non è pazzesco, ecco, non è blasfemo, non è blasfemo, anche se tu mi insegni, ma ne abbiamo parlato anche l'altra volta, che il mondiale è una gara che non c'entra quasi nulla, anche dal punto di vista emotivo, con la Coppa del Mondo. Assolutamente vero, purtroppo l'abbiamo visto, bisogna essere bravi a beccare quel momento, quella situazione, e forse noi in questo non siamo tanto bravi. Purtroppo se arriveremo, io spero tanto di no, anche a questo mondiale senza zero medaglie, ci sarà da trarre una lezione, una morale, perché sarebbero due edizioni in cui finiremo in bianco. Certo. Ma anche con una medaglia o uno o due medaglie, quello che eventualmente saranno, questo dato è già emerso. Dobbiamo lavorare meglio e capire che effettivamente è tutta un'altra cosa, serve un'attenzione a dei dettagli che evidentemente non è stata data nemmeno questa volta. Sai che non aveva ragione la Goggia quando dice serviva lo psicologo, ce l'abbiamo, non l'abbiamo portato qua, mi domando cosa lo paghiamo fare. No, questa è una delle tante cose assurde, forse non c'è ancora la cultura di capire che certe figure dentro una squadra sono fondamentali all'interno, soprattutto in una maestrazione come questa. L'hanno capito gli stranieri ad ogni livello, e noi facciamo forse ancora i fenomeni, e, oppure non so, facciamo quelli che magari vogliono risparmiare, no? Che ci credono fino a un certo punto. Fino a un certo punto, qui sta l'errore. Nello sport professionistico a questi livelli ormai è una figura normale quella dello psicologo. Grazie Flavio. Sofia l'ha detto chiaramente, in questo momento avevamo bisogno, perché i pensieri erano anche diversi, certo, da quelli che abbiamo. Ma come è normale che sia. Grazie Flavio. Grazie a voi, Flavio Vanetti. Ci fermiamo qui, ragazzi. Sera 20:45, Napoli, Real Madrid, e poi ovviamente noi domani siamo qui a parlarne. Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Ciao a tutti. E ricordatevi, qui l'importante non è partecipare, è vincere. Forza Napoli!